Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, la raccolta degli abiti usati diventa high-tech. È partito da Milano il progetto Clothes for Love, nuovi contenitori digitali e buoni sconto ecosostenibili. Ve lo raccontiamo tra pochissimo. Si moltiplicano le piattaforme per i servizi domestici a richiesta, nuova scommessa della sharing economy. Punto d'incontro tra chi cerca un idraulico, un falegname, un elettricista per l'esecuzione di un lavoro e il professionista in cerca di nuovi clienti. Dalle lampade alle valigie fino ai camper, tutti oggetti rigorosamente gonfiabili, il nuovo must del design. Ne parliamo nel focus sui trend di questa settimana. It's a magic number. Sapete che ognuno di noi compra in media 14 kg di abiti all'anno e che produce ad ogni cambio stagione 4 kg di abiti usati. Abiti che solitamente finiscono, nella migliore delle ipotesi, in beneficenza, altri direttamente nel cassonetto. 80.000 tonnellate che, se raccolte diversamente, produrrebbero un risparmio annuo nei costi di smaltimento dei rifiuti urbani di 36 milioni di euro. Ecco perché molti retailer sono impegnati nel ritiro degli abiti usati, una pratica da incentivare con iniziative che, nel segno dell'economia circolare, innescano pratiche virtuose. Ecco perché abbiamo deciso di raccontarvi Clothes for Love, il progetto a cura dell'organizzazione umanitaria Umana People to People Italia, in collaborazione con Auchan e le principali amministrazioni comunali lombarde. Nuovi contenitori completamente digitalizzati e la possibilità di ottenere degli eco gift. Ci racconta tutto Stefania Tiozzo. Il progetto nasce dall'idea di innovare la raccolta degli abiti usati e soprattutto di coinvolgere il cittadino a favore dello sviluppo del territorio. Quindi qual è un po' la logica di questo nostro progetto? Proviamo a presentare questi contenitori, che sono contenitori rossi a forma di cuore e che quindi comunicano subito la parte emotiva della donazione del vestito, perché ricordiamoci che chi dona il vestito tendenzialmente lo dona per un obiettivo sociale, quindi già questo gesto ha in sé una componente di solidarietà. Volendo un po' far evolvere il tradizionale contenitore giallo, che comunque Umana mantiene in tutta Italia laddove è presente con la propria raccolta degli indumenti, abbiamo pensato di renderlo appunto tecnologico, quindi con una parte relativa proprio alla struttura del contenitore e alla sua funzione, ma anche al dialogo col cittadino. Quindi la parte veramente innovativa è questo touchscreen digitale, per cui i nostri utenti possono avere sia informazioni su Umana, sulla raccolta di Umana e sulla filiera, che noi vogliamo sia la più trasparente possibile, ma anche la possibilità di avere degli eco gift. Quindi noi diciamo, ed è scritto anche sul contenitore, il tuo abito diventa buono perché ha un obiettivo di solidarietà, ma al contempo ti permette di ottenere un buono, quindi un buono che puoi spendere in, diciamo, esercizi commerciali diversi. Auchan Retail Italia è uno dei nostri principali partner, con i brand centri commerciali Auchan e con i supermercati Simpli, ma ci saranno poi le amministrazioni comunali e quindi anche esercizi commerciali di varia natura, piccoli riparatori, caffetterie piuttosto che sartorie, negozi di questo genere. Quindi chi dona l'indumento nei grossi contenitori a forma di cuore di Umana ottiene anche qualcosa per sé, anche qualcosa per il proprio territorio. Dove troviamo questi nuovi contenitori? Allora, al momento abbiamo il contenitore presso il supermercato Simpli di Viale Corsica 21 a Milano e nelle prossime settimane saranno presenti anche nella città Brescia, di Lecco, di Como, di Varese, Pavia, eccetera. Se posso ricordo il sito clothesforlove.it, che riporta il programma delle prossime tappe e tutte le informazioni soprattutto relative al progetto in Malawi che le persone sostengono donando i propri indumenti. Stai male? No, è una sciocchezza. Solo la prospettiva di rifare i bagagli e spostarci quando scoprono che hai ucciso l'idraulico. Non l'ho ucciso, l'ho portato in ospedale. Perché l'hai ridotto una polpetta? È l'unico idraulico nel raggio di 20 miglia. Ma ci ha mancato di rispetto e ti ha trattato come una serva, tesoro. Senti, sono sopravvissuta. Quello cercava di darmi una fregatura. Mettete nei miei panni. Certamente io non gli avrei dato una pestata. Insomma, ora chi li ripara i tubi? E chi ricostruisce il supermercato che è bruciato quando siamo arrivati? Eh? Nei prossimi 10 anni le piattaforme per i servizi domestici e professionali a richiesta cresceranno più di quelle per il turismo. Secondo gli analisti saranno seconde solo a quelle della microfinanza online, vale a dire prestito e raccolta fondi tra privati, e in quanto a crescita saranno davanti, pensate, anche a quelle per il car sharing. Sul mercato italiano sono già presenti da tempo, abbiamo deciso di raccontarvi una delle principali, Gianmarco Sessa, grazie per esserci venuto a trovare. Grazie. Gianmarco Sessa è Country Manager Italia di InstaPro. Allora, spieghiamo subito brevemente che cos'è InstaPro e come funziona. Allora, InstaPro è semplicemente un marketplace dedicato ai servizi per la casa, dove mettiamo in contatto l'utente finale con le ditte di professionisti, come imbianchini, ditte d'edilizia, giardinieri, diciamo un po' di tutto che ha a che fare con servizi per la casa. Da quanto siete in Italia? Dal 2015. Però voi non siete italiani, siete? No, siamo olandesi, infatti. Olandesi, sì, quindi casa la casa madre è ad Amsterdam. Olandese. Diamo qualche numero. Diciamo, noi abbiamo ricevuto fin dalla nascita fino ad oggi intorno alle 132.000 richieste di preventivo, abbiamo oltre 11.000 ditte iscritte sul portale, con oltre 13.000 recensioni. I professionisti che mi rispondono sono quelli, come dire, della mia zona, che sono vicino a me, esattamente, che avrei sì. trovato normalmente con il passaparola, chiedendo agli amici, ai vicini di casa, conosci un bravo imbianchino? Esattamente, questo è un po' il concetto, però portato all'online, così che possiamo conoscere altre ditte presenti nel territorio, quindi non solo quelle del passaparola. Ovviamente immagino, come tutte le piattaforme della sharing economy, ci sia un sistema di feedback, di ratings degli altri clienti. Assolutamente, e queste sono appunto le recensioni. Il cliente, quando viene online, manda la richiesta di preventivo. Una volta che riceve questa richiesta, può semplicemente vedere tutte le recensioni che ha la ditta. Quindi questo facilita un po' la scelta. Questo testimonia quanto, Gianmarco, la digitalizzazione sia ormai entrata nella vita di tutti noi. Dicevamo, prima ci affidavamo al vicino di casa, al passaparola, ormai abbiamo bisogno di un idraulico, appunto, c'è una piattaforma che ci aiuta in questa operazione. Esatto. Tra i servizi più richiesti abbiamo sicuramente la ristrutturazione della casa, rifacimento dei bagni, tinteggiature interne, rifacimento delle cucine, quindi un po' tutto sulle ristrutturazioni sono quelli più richiesti. Voi avete fatto una classifica delle stanze per le quali si spende di più in Italia. Sì. Qual è la stanza per cui in assoluto si spende di più? Secondo i nostri intervistati, il 40% delle persone preferisce il salotto. Il salotto è la stanza regina delle case italiane, e al secondo posto ovviamente c'è la cucina e in terzo il bagno. Gianmarco Sessa, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, un saluto agli ascoltatori. Dal negozio che vende gli ingredienti per creare a casa un dolce di pasticceria al punto vendita self-service di prodotti alimentari per animali domestici. Sono due dei progetti finalisti del talent show Restart, tra le novità della 32esima edizione del Salone del Franchising, in programma dal 12 al 14 ottobre a Fiera Milano City. Un settore, quello del franchising, che registra segnali di ripresa nei suoi 51.000 negozi per 950 catene sparse in tutta Italia, forte di 24 miliardi di fatturato annuo. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi, tra pochissimo ripartiamo come sempre dal focus sui trend. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Essere e Avere. Carl Fredriksen aveva sognato l'avventura. Oggi la sua avventura finalmente decolla. Con tanti saluti! Focus sui trend. Gonfiabili, questa è la nuova parola d'ordine per gli oggetti di design all'insegna della leggerezza, della versatilità e ovviamente del divertimento. Ci aiuta ad esplorare la tendenza Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera. Allora, con cosa iniziamo? Qual è il primo oggetto che hai selezionato per noi? Allora, è un progetto dell'artista Elizabeth Boucher, si chiama My Shower is a Green Warrior. La mia doccia è un guerriero verde, come progetto, però il prodotto che lei propone si chiama Spike Curtain, è una tenda di doccia gonfiabile e che ci fa proprio riflettere su un tema reale, quello della tutela delle risorse. Ecco, si chiama proprio Spike Curtain perché è dotata di spine gonfiabili questa tenda della doccia. Ma come funziona? Dopo 4 minuti passato sotto il soffione della doccia si gonfiano le sue punte spinose, che invece sono innocue, semplicemente decorative quanto sono sgonfie, costringendo chi si trova sotto la doccia a uscirne, concludere in fretta la doccia e di conseguenza risparmiare acqua. È un modo divertente anche per scoraggiare lo spreco d'acqua. Da sottolineare che secondo uno studio condotto da Unilever e dal professor Hilde Hendricks, una doccia della durata media di circa 8 minuti, quindi il doppio rispetto a quello consentito da questa innovazione, consuma ben 62 litri d'acqua. Una sorta di spinta gentile quindi al consumo responsabile. Passiamo al secondo oggetto, firmato da un grande nome del design. Ingo Maurer, che è ovviamente il grande progettista, che ha sempre puntato sulla luminosità delle nostre case con grande poesia, ha lanciato recentemente Blow Me Up. Un tubo di aria luminosa viene definito dall'azienda. Si tratta di un tubo gonfiabile progettato in materiale sintetico e metallo, ma è sorprendente anche come viene presentato il prodotto, perché si compra arrotolato in una lattina, può essere gonfiato dall'utente togliendolo dalla lattina e facendo sì che la striscia LED, in cui è integrato un interruttore sensoriale, irradia la parte riflettente del tubo diffondendo una luce indiretta nella stanza. Se uno la vede, pensa subito che questa lampada gonfiabile sia quasi una spada laser di Star Wars e ha molteplici possibilità di impiego: può essere appoggiata alla parete, appesa al soffitto o semplicemente posata a terra. Infatti leggo dai materiali che mi hai anticipato, Lucia, una lampada per i giovani dentro, che abbracciano la mobilità, quindi anche pensata per andare incontro alle nuove abitudini, soprattutto millennials, immagino. Certo, è come non pensare che è perfetta per andare anche a campeggio, portarla dietro. Passiamo proprio a un brand simbolo per questa generazione, che proprio sulla mobilità, sui nuovi modi anche di vivere la città, sulla sostenibilità, ha costruito la propria fortuna. Di chi parliamo? Parliamo di Freitag e la sua Zeppelin Suitcase. È il prossimo esempio incredibile, anche perché Freitag, l'azienda di Zurigo che è diventata famosa 20 anni fa per le sue borse realizzate riciclando i vecchi teloni di camion e le camere d'aria di bici usate, le cinture di sicurezza dismesse, è sicuramente un esempio forte e credibile per poter creare un bagaglio straordinario e un bagaglio da tenere nel cassetto e gonfiare all'occorrenza. Ecco, adesso mi spiego. Zeppelin è un trolley da viaggio intercontinentale, perciò stiamo parlando di un bagaglio grande che, come struttura però interna, invece di essere fabbricato con tubi o avere una scocca, no? Ha una camera d'aria facilmente gonfiabile e sostituibile. Così il borsone da 85 litri può letteralmente sgonfiarsi, essere arrotolato e reso piccolo piccolo, come una bottiglia, no? Da 2 litri. È molto robusto però e può essere utilizzato grazie a questa sua struttura innovativa, e allo stesso tempo può essere messo ovunque in casa alla fine di un viaggio e sicuramente non sarà mai d'intralcio, soprattutto nelle case dei millennials dove lo spazio scarseggia. È anche la prima volta che Freitag annuncia il lancio di un prodotto con una campagna su Kickstarter. Come sempre le immagini sono sulla nostra pagina Facebook, quelle del prossimo caso sono dedicate ai camperisti, Lucia. Ecco, chi ama viaggiare in camper dice che Air Opus è il camper più bello, innovativo e affascinante che si è mai visto negli ultimi anni. Beh, in realtà a me sembra come un Carello 4x2, ma... Anche a me, sinceramente. Ma è una casa gonfiabile che si monta in 90 secondi grazie a una pompa elettrica che è integrata e alimentata da una batteria da 12 volt, si gonfia e si trasforma in un'abitazione pronta da vivere. C'ha un toilet portatile, la cucina con piano cottura, lavello, frigorifero, 2 letti matrimoniali, divano, cioè è una meraviglia, l'aria condizionata, persino le finestre per poter guardare il panorama ovunque. Poi di nuovo in pochi istanti le valvole a sgancio rapido consentono di far uscire l'aria e far rientrare nel suo box e riportarla via. Perciò è veramente incredibile, è un progetto che ovviamente ha il suo costo. Beh, allora siamo passati dalle città alle vacanze open air, diciamo così, stiamo coprendo tutte le abitudini, tutte le esigenze. Con il prossimo caso però puntiamo molto in alto, Lucia. Davvero, perché parliamo di un pallone aerostatico pensato per viaggiare nello spazio. 02 Infinity, che è una società privata di trasporti spaziali nata a Barcellona recentemente nel 2009, ha pensato a una navicella spaziale che si chiama Bloon Pod, che è circolare e che porterà gli umani, ecco, nell'atmosfera e oltre. È stata configurata per un totale di 6 passeggeri, inclusi i piloti, ci sono spazi individuali per ogni viaggiatore e rappresenta una soluzione sostenibile per il trasporto spaziale. Addirittura dicono che non ha alcun impatto negativo sull'ambiente. Ecco, questo palloncino gigante permetterà di raggiungere un'altitudine di 30-35 km, che è una distanza sufficiente per avvicinarsi allo spazio, ma senza dover fluttuare in assenza di gravità. È stato pensato e realizzato il progetto di design con gli studenti della scuola di Elisava. E poi hanno annunciato anche un accordo con un marchio di moda importante, sostenibile, che si chiama EcoAlf, che progetterà l'abbigliamento per i piloti, passeggeri e anche il team della società. 36 secondi per chiudere con l'arte. Noemi Lachmeier, un'artista disabile dalla nascita che è stata costretta di muoversi su una sedia a rotelle, ha deciso di sfidare la propria paura di chierofobia, paura estrema di essere felice. L'artista aveva immaginato come sarebbe stato bello volare, essere sospesa in aria grazie ai palloncini, così immagina una performance artistica cercando la felicità e crea questa straordinaria performance che ha avuto luogo all'interno della chiesa di San Leonardo di Londra e dopo al teatro dell'opera di Sydney, rimanendo sospesa in aria per circa 9 ore, legata e sospesa grazie a 20.000 palloncini, quelli da festa. Lucia Cromesca, grazie, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Il mondo dei consumi è cambiato, lo andiamo raccontando da tempo, ci aiuta a comprendere i segnali di questo cambiamento il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Grazie Maria Luisa, buonasera ai nostri radioascoltatori. Questa sera lo vedo già sul tavolo dello studio, partiamo da un libro. Partiamo da un libro importante, si chiama Fuori controllo. Il sottotitolo è ancora più importante, un'antropologia del cambiamento accelerato, e l'autore è Thomas Hilland Erickson. In questo libro vengono chiariti alcuni aspetti di grande cambiamento proprio in quei mondi che oggi i consumatori guardano con grande attenzione, cioè il mondo dell'ambiente, il cambiamento climatico, il mondo della mobilità, come stiamo imparando a gestire anche il nostro neonomadismo, e, cosa che ci riguarda molto da vicino, il mondo del sovraccarico dell'informazione. Quindi c'è un rischio saturazione in questo momento, così come lo è stato per l'ambiente. L'autore del resto parla non solo di crisi ambientale, ma anche di crisi economica e identitaria soprattutto. Esatto, e chiarisce molto bene che per risolvere queste crisi non possiamo giocare la partita che abbiamo giocato fino ad oggi, cioè dobbiamo cambiare il punto di vista. È un po' quello che diceva Ulrich Beck anche nel suo libro Metamorfosi. Dobbiamo capire che tanti cambiamenti sono effetti collaterali di qualcosa che noi abbiamo fatto nel mondo dell'industria, della comunicazione, però non ne abbiamo capito le conseguenze, e quindi è lì che sta il fuori controllo. Non possiamo riprendere il controllo con la forza della volontà, dobbiamo semplicemente comprendere meglio lo scenario. E faccio un esempio per tutti: dobbiamo capire che, ad esempio, nei media tutto il tema del post-verità va superata chiarendo che la verità esiste, e quindi su questo bisogna riattrezzarsi, diciamo. Quindi una critica anti-globalizzazione, però con elementi nuovi. Con elementi nuovi, perché lui chiarisce molto bene che il tema non è essere semplicemente contro la globalizzazione, ma trovare nuovi strumenti per utilizzare la nostra visione, che è universale, perché la rete ci permette di far questo, ma dando anche molto più spazio al genius loci, che, come sai, è un nostro tema ricorrente, e quindi la forza, il talento dei luoghi che devono accettare però la grande sfida del globale. Quindi contesti locali come soluzione anche. Come soluzioni, crisi. Come laboratori anche, certo. No? Un'azienda che ad esempio produce qualcosa di unico, perché molto locale, deve però anche parlare la lingua del globale, e deve farlo non in modo resistente, cioè non deve resistere tirando muri inutili, ma deve entrare in questo nuovo metabolismo. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere a Vere finisce qui. A domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.